Allora, 9.38, ancora in diretta, siamo in diretta con Luca di Radio Notav. Ciao Luca! Ciao Luca, sei in diretta. Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dove ti trovi in questo momento, in questi momenti così convulsi? Guarda, adesso siamo un gruppo di persone che si sta cercando di radunare nel bosco. Sostanzialmente c'è stato lo sgombero del piazzale, come già penso di aver già detto. E poi una specie di caccia all'uomo ai margini del bosco, dove sono state anche sradicate alcune tende, sicuramente c'è stato qualche ferito, ho visto manganellare duro, i poliziotti sono veramente incattiviti e adesso credo che il grosso delle persone sia un po' disperso, credo a monte, insomma siamo tutti più o meno defluiti verso monte, quindi il lato della Ramà, stiamo cercando di rilassarci un attimo, capire un po' come si sviluppa. Voi avete notizie di altri gruppi? Allora, per quanto riguarda la situazione lì, appunto, fuga generale attraverso i boschi, anche da altre voci, abbiamo sentito le tue stesse testimonianze, spinti dai gas irrespirabili, inseguiti poi appunto con questa pazzesca, direi, caccia all'uomo, tra l'altro su un territorio sicuramente poco consono ai ciccioni poliziotti, si lanciano anche questi inseguimenti incredibili. Appunto, da quanto ho capito, voi siete tutti molto molto sparsi comunque, non... Sì, è stato difficile mantenere il gruppo compatto tra i lacrimogeni e tutto il resto, sì, sostanzialmente c'è stata una dispersione adesso. Però io credo che sia stata comunque fino adesso fatta una buona resistenza, per cui comunque la gente è determinata, vedo tutti abbastanza sereni e proprio determinati nel provare a restare ancora qua, a vedere di riorganizzare qualcosa, e sicuramente questa aggressione pesante nei confronti, ennesima aggressione nei confronti della Val Susa avrà una risposta grande che non tarderà ad arrivare. Adesso cercheremo di riorganizzare un attimo molle fila e poi capire un po' che cosa provare a fare. Certo. So che ci sono anche dei blocchi stradali in corso in mezzo alla Val di Susa. Sì, allora abbiamo sicuramente dei blocchi a Sant'Ambrogio, si sono radunate già da un po' di tempo a Bussoleno un bel po' di persone. Saprai anche della notizia dello sciopero generale per quanto riguarda la provincia della CUB qua a Torino, appunto non abbiamo ancora notizie, ma sappiamo che è così, città un po' meno meri di Mulin, sicuramente ci sarà qualche risposta anche in città. La solidarietà è inondata qua, la redazione di Blessaggi da tutta Italia, Firenze, Roma, dalla Francia ci ascoltano, e solidarietà massima a tutti i Notav, quindi sappiate che tanta la gente che sta seguendo queste vicende, più di 500 persone in streaming a seguire le vicende Notav tramite Radio Blackout. Quindi insomma, sappiate che non siete affatto soli e che la solidarietà attorno a voi è tanta, tantissima. Benissimo. Qua allora cogliamo questo invito, anche noi auspichiamo che la gente ovunque si mobiliti, noi cerchiamo da parte nostra di non mollare e quindi insomma ci risentiamo magari più avanti per aggiornamenti. Certamente, grazie mille Luca, a presto allora, buona resistenza ancora. A dopo. Un abbraccio.